a Pisa in ponta un albero in giallute, sto cielo mio più grigio è diventato, a quando tu te ne sei chiuta. Sola, sola malata, stai là come di tutte fornute, io penso a te, tu chiagni imbraccianata, amore mio, che t'ha già di. E senta nostalgie che illusione, c'ha brucia la pelle in mezzo mare, quando una rezza ci stendeva amore, che ne sospiro tu stivi in braccio a me. Solo, solo malato, all'aria vanno uccelli sconosciuti, io penso a te, tu chiagni in braccia nata, amore mio, che t'ha già di. Ci resta una speranza primavera, ci resta una compagna a nostalgia, appena passo via una vita mia, trova una via o viene a cercare. Solo, solo malato, stai là come metti tutto per noi, io penso a te, tu chiagni in braccia nato, amore mio, che t'ha già di. Solo, solo malato.